Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali europei o di giornali che parlano di questioni europee. E questa settimana partiamo dal Guardian, il quotidiano britannico, forse il più autorevole, vince sempre premi per la qualità dei suoi reportage, ha anche un sito che è il più visitato in assoluto in lingua inglese, anche più di quelli dei giornali americani, proprio perché alla fine la qualità vince. Aggiungiamo che il sito è anche completamente gratis e questo forse aiuta. L'inchiesta che vi segnalo oggi, sempre grazie al prezioso lavoro di voxeurope.eu, il sito che vi segnalo sempre, che fa un po' lo stesso lavoro che cerchiamo di fare noi, il titolo di questo reportage è "I giganti del petrolio frenano sui controlli europei". Il tema è quello che diverse società appunto del settore petrolifero, tra cui BP, British Petroleum, Chevron, Shell e ExxonMobil, mirano in sordina a persuadere i leader dell'Unione Europea affinché vengano abolite una serie di misure di sicurezza in materia di ambiente sull'attività di fracking, con il sostegno del governo britannico. Sapete che il fracking è quell'attività che, tra l'altro, alcune compagnie hanno già interrotto in altri luoghi, non nei mari intorno al Regno Unito, che dovrebbe permettere di scovare il petrolio, ma creando gravissimi scossoni sotto la crosta terrestre, gli effetti dei quali a medio lungo termine nessuno sa prevedere, e quindi da sempre il fracking è una pratica molto contestata, ma che per trovare nuovo petrolio, specialmente non nei paesi produttori dell'OPEC ma qui da noi, diciamo in Occidente, appunto è stata molto utilizzata. Il Guardian ripercorre veramente, questa è proprio un'inchiesta vecchio stile, una serie di documenti che i suoi giornalisti hanno scovato in sede europea, e appunto giunge a questa conclusione che tramite le lobby sostanzialmente si cercano di aggirare i controlli europei o comunque di fare in modo che questi abbiano regole diverse. Un'altra questione interessante questa settimana, come vedete cambiamo un po' i temi, anche se naturalmente i grandi temi della migrazione, della nuova governance economica e politica dell'Unione Europea tornano e torneranno sempre, però appunto per una settimana volevo così segnalarvi alcuni articoli di ispirazione un po' diverse. Allora appunto sulla Welt, che è un quotidiano tedesco non tra i più grandi però abbastanza seguito, che ha anche un bel sito, si è avviata una nuova discussione sul salario minimo. Esponenti di spicco della CDU, il partito della cancelliera Angela Merkel, il partito dei cristiano-democratici tedeschi, chiedono di allentare la normativa sul salario minimo, soprattutto per favorire i rifugiati. Allo scopo di rendere il mercato del lavoro tedesco accessibile ai rifugiati, molti dei quali sono poco o per niente qualificati, autorevoli esponenti appunto della CDU hanno chiesto eccezioni alla recente legge che ha introdotto nel paese un salario minimo. Il ministro presidente della Sassonia Anhalt, uno dei Land che compongono la Germania, che è uno stato autenticamente federale, lo ricordiamo, il conservatore Rainer Haselhoff, ha detto al quotidiano che non si dovrebbe applicare il salario minimo a posizioni di apprendistato o da prima esperienza, e che disposizioni specifiche dovrebbero facilitare l'impiego di lavoratori non qualificati. Poi vi segnalo una vignetta, la trovate anche questa sul sito di voxeurope.eu, una vignetta che mi dà anche lo spunto di ricordare il Festival del Giornalismo che si è tenuto nello scorso weekend a Ferrara, il Festival del Giornalismo organizzato da Internazionale, che tante volte citiamo. È un festival che ha avuto un record di 71.000 presenze, che per noi giornalisti è motivo così di grande ottimismo, secondo me, perché i frequentatori di questo festival, che è sostanzialmente una 3 giorni di incontri con giornalisti di tutto il mondo, sono anche giovanissimi. E quindi si vedono queste lunghe code, improbabili, possiamo dire così, incontri su temi difficilissimi come la Bielorussia o la digitalizzazione dell'informazione, e partecipano tantissimi giovani, quindi proprio come se ancora insomma avessero questo filtro, questa famosa intermediazione del giornalismo avesse ancora un suo perché, proprio anche per le generazioni più giovani. Ma ve lo segnalo anche perché una delle tante iniziative del festival è quella del concorso per vignette che hanno a tema l'Europa, e quest'anno ha vinto una vignetta di Marilena Nardi, un'illustratrice italiana, che ha vinto questo premio appunto per la miglior vignetta sull'Europa pubblicata in Italia. È stato consegnato il 4 ottobre scorso a chiusura del festival, e la vedete appunto sul sito voxeurope.eu. è una grande signora, una matrona potremmo dire, che si chiude le orecchie, ha un vestito blu che ricorda la bandiera dell'Unione Europea, si vedono molto bene le stelle che caratterizzano la nostra bandiera, ma sulla gonna immensa di questo vestito da matrona appunto ci sono anche le figure dei migranti che annegano cercando di raggiungere l'Unione Europea. A proposito di migranti, di immigrazione, vi segnalo un articolo della Süddeutsche Zeitung, un giornale del sud della Germania, dove i vertici delle chiese evangeliche cattolica tedesca hanno espresso tutta la loro soddisfazione per la posizione della cancelliera Angela Merkel, quando, lo sapete, ne abbiamo parlato tanto, ha deciso nelle settimane scorse di aumentare, senza che ancora prima che venissero prese nuove misure o venissero consigliate nuove misure da Bruxelles, di aumentare il numero dei rifugiati che la Germania è disposta ad accogliere, soprattutto dalla Siria. E poi, questa è una piccola soddisfazione che è stata data in anteprima dai quotidiani francesi, da Le Monde, dalles Echo e anche dalle Figaro, e l'avete sentito anche sicuramente qui alla Radio 24 o letto sui giornali, la notizia che nel 2015 l'Italia è tornata a essere il primo produttore mondiale di vino, non solo europeo, spodestando i cugini d'Oltralpi francesi, che sono finiti al secondo posto, e dietro di loro la Spagna. E questa notizia, appunto, che poi Bruxelles ha confermato, è stata data in anteprima dai quotidiani francesi, così, con un misto di imbarazzo e di disappunto. Ma continuiamo un po' sulla questione dei migranti, perché non volevo assolutamente dire che passi in secondo piano, solo che magari, appunto, a differenza delle settimane scorse, non è il primo articolo che vi cito, però abbiamo parlato di internazionale. Ecco, su internazionale Nathalie Nougaillered, che abbiamo già citato nelle scorse settimane, ha pubblicato un articolo intitolato "L'emergenza dei profughi fa crescere l'Europa", e argomentando, lei è una giornalista corrispondente di Liberazione della BBC per tanti anni dalla Cecoslovacchia e dal Caucaso, quindi ha sicuramente assistito a tante onde migratorie che hanno interessato anche l'est dell'Europa, e l'argomento è che si dice spesso che l'integrazione europea avanza solo quando è sull'orlo del baratro. Il detto secondo cui le crisi sono opportunità può sembrare banale, ma non per questo è sbagliato, e appunto secondo questa giornalista in particolare si applica a questa recente crisi sui migranti. Abbiamo parlato poco forse delle elezioni in Spagna, in particolare quelle naturalmente della Catalogna, che è una anche qui una parte, la Spagna non è esattamente uno stato federale come la Germania, però è divisa in macro regioni. La Catalogna, la Catalogna, avete sicuramente seguito i risultati delle elezioni di 10 giorni fa, si è espressa appunto per, almeno ha vinto il partito che si esprimeva per la secessione vera e propria. Il titolo dell'articolo dei commenti dei giornali, il succo potremmo dire, il sunto degli articoli, dei commenti apparsi sui giornali spagnoli è "divisi ma non troppo, la scissione dell'elettorato catalano non è profonda come sembra", i commenti del Mundo e dell'Avanguardia. Per esempio, appunto, El Mundo, uno dei due principali quotidiani spagnoli insieme al País, poi c'è l'Avanguardia, scrive: "La farsa continua, anche le menzogne". Perché questa presa di posizione? Perché per il secondo quotidiano del paese solo una distorsione della legge elettorale e un'iniqua distribuzione parlamentare hanno consentito di trasformare una sconfitta per percentuale di voto in una vittoria per numero di seggi. Questo un po' anche come dire che non siamo gli unici qui in Italia ad avere una legge elettorale che non viene considerata perfetta, anzi lungi dall'essere perfetta, scopriamo appunto che anche in Spagna ci sono problemi di trasformazione del numero di voti poi in seggi. Vi segnalo poi un articolo apparso su Financial Times, anche in questo caso ripreso da Internazionale, che si intitola "Perché gli afghani cercano rifugio in Europa". Abbiamo parlato tantissimo di siriani e naturalmente anche di immigrati dal Nord Africa, poi c'è quest'altro gruppo importante che sono appunto gli afghani. Ahmed Rashid spiega appunto su Financial Times che dopo i siriani, gli afghani costituiscono il gruppo più numeroso arrivato in Europa di recente. Molti vengono dal Pakistan, che ne ospita più di 2 milioni e che non li vuole. Vi leggo l'ultima parte dell'articolo. "Oggi c'è un bisogno disperato di riportare l'attenzione su questi conflitti, cioè su tutti i conflitti di quell'area". Sappiamo che tra l'altro tra poco anche il contingente italiano, come quelli di tantissimi altri paesi, proprio si ritirerà completamente, lasciando una zona che non si è mai del tutto pacificata un po' al suo destino. Quindi riportare l'attenzione su questi conflitti e trovare una soluzione diplomatica, altrimenti migliaia di civili siriani e afghani continueranno a scappare. Era l'ultima segnalazione per oggi. Continuate appunto a seguirci, continuate magari a visitare questi siti tipo voxeurope.eu o il sito di Internazionale, e noi ci diamo invece appuntamento a sabato prossimo. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.